L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'altro pianeta, il pianeta che vuole rispettare e preservare il proprio ambiente anche per tutelare, preservare e rispettare la salute di chi abita su quel pianeta. Parliamo infatti questa settimana di sicurezza alimentare. Lo facciamo grazie alla collaborazione del collega Paolo Usinabia, che ha raccolto le interviste che ascolteremo nel corso della puntata. L'occasione per parlare di questo tema è stata la produzione di un documentario intitolato La scienza del buon mangiare, realizzato dalla Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Area Science Park, ovvero il polo di ricerca che è gestito dal Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, che dal 1999, quindi non da poco, è diventato ente di ricerca nazionale sotto la vigilanza del MIUR. Partendo dall'ecosistema e dalla sua salvaguardia da aggressioni e abusi, è facile arrivare alla considerazione che le nostre basi di sopravvivenza, la terra e l'acqua, vadano preservate perché ora e in futuro siano in grado di dissetare e sfamare ovunque la crescente popolazione del pianeta Terra. Il sapere e la ricerca possono fare molto in questo, prevenendo errori e facilitando il corretto utilizzo delle risorse, rimediando ai danni derivanti da contaminazione e inquinamento, migliorando i processi di produzione alimentare. Questo è solo un piccolo assaggio, un primo passaggio di questo documentario, che poi ascolteremo in altri frammenti nel corso della puntata, che ci fa un po' il quadro dei temi che saranno toccati, o almeno i primi temi che saranno toccati, ovvero quello appunto della sicurezza alimentare nella produzione, trasformazione e conservazione dei cibi, e poi la questione della reale possibilità di nutrire la sempre crescente popolazione di questo pianeta e di conseguenza la questione della produttività dell'agricoltura con o senza OGM e quindi nel complesso la tutela delle risorse del pianeta Terra. Ecco, queste questioni sono quotidianamente affrontate nelle decine di laboratori che trovano spazio nell'area Science Park di Trieste ed è proprio per queste ricerche che si è prodotto questo documentario di cui ci troviamo a parlare oggi. Leo Brattoli è coautore del documentario, lavora per Area Science Park e ci spiega un po' quindi più nel dettaglio la questione. È un documentario che si pone l'obiettivo di verificare e far conoscere come la scienza e la tecnologia possano oggi essere d'aiuto sia nel garantire oggi e in futuro il quantità di cibo utili a formare una popolazione del pianeta in crescita, sia a garantire qualità e sicurezza dei cibi che attualmente arrivano sulle nostre tavole e anche a garantirne un livello di qualità anche percettiva e quindi di gusto e di sapore sempre costante e sempre crescente. Le ricerche che noi abbiamo praticamente analizzato all'interno di questo documentario si basano su ricerche e sviluppi del Parco Scientifico di Trieste, vanno dalla genetica alla ricerca su nuovi sistemi di diagnosi degli alimenti, arrivano praticamente allo studio attraverso la luce di sincrotrone, per esempio, della struttura, della microstruttura del cibo, di un cibo come il pane, per esempio, allo studio della struttura dei grassi per capire come la modifica dei grassi anche in funzione delle temperature possa migliorare o peggiorare i cibi e quindi praticamente mettere le aziende alimentari nelle condizioni di formulare al meglio sia i prodotti sia tener conto delle possibili varianti utili ad esempio a far sì che un prodotto abbia una durata, la shelf life, la durata, la scadenza più lunga e quindi praticamente poter essere più facilmente commercializzato. Ecco, l'obiettivo di questo documentario, cioè a chi è rivolto fondamentalmente? Il taglio è divulgativo, è rivolto a un pubblico vasto perché l'idea è quella proprio di far conoscere in maniera semplice, quindi non da addetti ai lavori, quali sono le potenzialità della ricerca in questo settore. Un potenziale pubblico è certamente quello delle scuole, infatti il nostro obiettivo, noi abbiamo realizzato questo documentario in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, il centro di produzione TV della Regione, l'obiettivo è proprio quello di farlo girare anche nelle scuole in modo da avvicinare anche gli studenti alle attività di ricerca e a far comprendere come la ricerca non sia un qualcosa di lontana da noi, ma così vicina da riguardare anche quello che tutti i giorni arriva nei nostri piatti. Una ricerca così avanzata nell'alimentare può essere anche fraintesa, nel senso può far passare il messaggio che diciamo così, un'eccessiva scienza nel cibo possa nascondere delle insidie, dei pericoli. E questo può essere, diciamo, una chiave di lettura, non nel nostro caso, nel senso che nel nostro caso si tratta effettivamente di analizzare i cibi per capire come anche nei processi industriali, che comunque ovviamente rappresentano una forma di manipolazione, in realtà la qualità degli alimenti base, degli elementi base di un alimento possa essere mantenuta a vantaggio della salute e diciamo anche del sapore dei cibi stessi. Quindi in sostanza una scienza buona da mangiare, come noi abbiamo definito all'interno del documentario, una scienza a favore del buon mangiare e a favore soprattutto del consumatore, che tutti i giorni vuole giustamente essere sicuro di quello che mette nel piatto. Quante persone sono coinvolte in questi progetti di ricerca? Beh, questi progetti di ricerca, specificamente quelli che abbiamo documentato, sono una cinquantina di persone nei vari progetti che noi abbiamo preso in considerazione. Ovviamente parliamo di quelli strettamente legati a singole attività, ma probabilmente siccome parliamo di grosse realtà di ricerca, come può essere appunto il Sincrotron Elettra piuttosto che l'ICGB, parliamo in realtà di strutture molto ampie che a vario titolo comunque collaborano nella formulazione di progetti nuovi, tra i quali quelli presentati nel documentario sono certamente di grande interesse, perché trattano di alimenti che entrano nella nostra dieta quotidiana, dal riso al kiwi, alla pasta, al pane. Proprio per concludere, una nota di curiosità o di costume, ecco, qual è la cosa più curiosa che è emersa da questi studi, che viene anche espressa così nel documentario? Ma diciamo, a me, io dico una cosa che mi ha incuriosito e mi ha colpito. Ci sono degli studi che vengono fatti sul caffè, sulla percezione, che vanno ben oltre, diciamo, lo studio del lato chimico e organolettico, semplicemente fisiologico, dell'assaporare un caffè, ma arrivano a sondare addirittura quelli che sono gli aspetti percettivi a livello neurologico e psicologico. Degli studi quindi di scienze sensoriali proprio, che puntano sostanzialmente a capire quali sono gli elementi proprio più connaturati agli stadi più profondi del nostro cervello, che fanno sì che noi possiamo dire, bevendo una tazzina di caffè, questo è buono, e quindi capire qual è l'elemento principale che possa in futuro anche farci dire che una nuova varietà di caffè, magari oggi selvatica, possa essere utilizzata per nuovi prodotti nel campo, ad esempio, della produzione del caffè. Quindi questo aspetto, come dire, che va oltre la contabilizzazione, diciamo, del fisico, ma arriva addirittura alla percezione neurologica e psicologica, a me passa una cosa veramente nuova e interessante. Infatti sono studi assolutamente nuovi, i cui sviluppi li vedremo nei prossimi anni. Cosa succede a un prodotto alimentare durante il congelamento? Come cambia la struttura di un grasso al calare della temperatura? E con quali conseguenze sulle proprietà organolettiche di un cibo? Sono alcune delle domande a cui i ricercatori stanno cercando di rispondere utilizzando la sorgente a raggi X del sincrotrone Elettra. Questo documentario fu presentato per la prima volta a Trieste Next, una manifestazione cui tra l'altro era presente anche Radio 24. E da quel momento in poi ha ovviamente suscitato una serie di discussioni legate non solo al tema della sicurezza alimentare, della nutrizione del pianeta, della tutela delle risorse del nostro pianeta, ma anche una discussione su temi più economici. Ad esempio, l'intervista che sentiremo tra poco di Paolo Usinabia. In campo alimentare, meglio tradizione o innovazione? A rispondere non sarà né un genetista né un nutrizionista, bensì Alessandro Carretta, che è il presidente AIDEA, Accademia Italiana di Economia Aziendale, professore ordinario di economia degli intermediari finanziari nell'Università di Roma Tor Vergata. Innanzitutto, il settore alimentare vive proprio questo connubio fra tradizione e innovazione, quindi è un settore dove questi due elementi, che spesso sono contrapposti, si riescono invece a unire in modo virtuoso per il consumatore. Il suo discorso, diciamo così, ha toccato anche il tema della ricerca di prodotti lontani da un lato e anche prodotti a chilometro zero. Dove bisognerebbe orientarsi? Per quanto riguarda il paradosso al quale lei fa riferimento, quindi questa contrapposizione fra prodotti di provenienza geografica lontana e prodotti a chilometro zero, è evidente che l'aspetto normativo e di confezionamento è di grande rilievo, nel senso che sia negli uni sia negli altri si annidano rischi dal punto di vista della sicurezza alimentare, perché sia prodotti che io posso acquistare o comunque di provenienza molto lontana possono non rispettare le normative, pensiamo ad alcuni alimenti che troviamo anche nei nostri supermercati e che hanno degli standard diversi da quelli europei, quindi sono ammessi, ma per noi che abbiamo palati particolari possono non risultare poi gradevoli, ma anche i prodotti a chilometro zero hanno questo rischio, perché non sempre il vino dell'oste è fatto in modo tale da rispettare una serie di elementi ai quali ormai siamo abituati. Quindi la sicurezza alimentare è un tema trasversale che riguarda sia innovazione che tradizione. Esattamente, che riguarda tutti e due i fronti e che in una certa misura richiede sia un contributo normativo forte, che certamente paesi più esigenti da questo punto di vista, e anche profili di confezionamento dei prodotti e di imballaggio tali da garantire questi profili. Ecco, si è parlato di innovare nel food, lei anche ha fatto un accenno, diciamo, le potenzialità di questo settore? Certo, il settore ha grandi potenzialità, teniamo presente che in Italia spesso si parla solo dei metalmeccanici, questo va detto, il settore alimentare invece è il secondo settore per importanza nel nostro paese, le potenzialità ci sono e sono forse ancora maggiori che in altri comparti in relazione alla natura delle aziende, perché poi le aziende che innovano nel nostro paese sono aziende sì abbastanza grandi, ma certamente non colossi internazionali, e sono quelle che hanno le migliori idee per un futuro del quale tutto sommato possiamo trarre vantaggio anche noi consumatori. Viene valutata la qualità del caffè verde tostato e vengono studiate la chimica e il profilo aromatico del caffè. La sua carta d'identità segnala circa 1500 note caratteristiche chimiche. Studiarlo vuol dire coinvolgere genetica, agronomia, botanica, fisica, matematica, chimica, biochimica, biologia, ingegneria, fisiologia e psicologia. E sempre in tema di tecnologie nell'alimentare, ma sotto un profilo sempre diverso, sentiamo anche il parere di Francesco Venier, che è il direttore dell'area Executive Education presso il MIB School of Management di Trieste, che ci dice qual è la sua impressione su che implicazioni finali può avere la presenza di più tecnologia nel settore alimentare. Tecnologia che tutela la sicurezza, ma magari non va a tutelare il mercato di riferimento. Secondo me l'innovazione tecnologica applicata al cibo è una, da un lato forse una cosa inevitabile e ineliminabile, per questioni tecniche, il numero di persone sulla Terra continua ad aumentare in maniera esponenziale, quindi in qualche misura bisogna risolvere dei problemi di sopravvivenza. Dall'altro è un problema soprattutto per l'alimentare di nicchia, che poi è il cavallo di battaglia dell'Italia, soprattutto per il vino di qualità, che è un altro dei grandi, delle grandi voci, della principale voce dell'export italiano. Ecco, introdurre lì innovazioni che in qualche modo danneggino l'immagine del prodotto, non sto parlando di salubrità, ma sto parlando di immagine, di logiche economiche e di mercato. Allora, introdurre innovazioni in prodotti che adesso godono di un'aura di eccellenza derivante anche dalla storia e dalla naturalità associata al prodotto, introdurre lì delle innovazioni, sto parlando agli OGM in particolare, no? Che magari in cambio una piccola soluzione di un problema tecnico, di trattamenti piuttosto che altro, poi distruggono un marketing asset enorme che è appunto questa immagine, questo alone di eccellenza legato alla storia e alla naturalità, sarebbe un errore. Quindi tutte le cose vanno fatte guardando realisticamente, da un lato il valore culturale dell'alimentare, che è uno dei settori più fortemente collegati alla cultura materiale, no? al piacere, all'estetica, ma anche all'identità stessa di un territorio, e dall'altro guardare appunto l'effetto che qualunque modifica sul contenuto intangibile dell'alimentare ha su quello che poi è la capacità di valorizzarlo e di mantenere, se vogliamo, questa identità con il territorio nel lungo periodo. OGM sì, OGM no, ci siamo lasciati su questo tema, ne parlammo già in una puntata passata in relazione al documentario, anche in questo caso un documentario Behind the Label. In quell'occasione si parlava di cotone, intervistammo Marcello Buiatti, genetista presso l'Università di Firenze, fermamente contrario per tante motivazioni che potrete scoprire andando a riascoltare la puntata nel nostro archivio, come riferimento era a settembre. Ora sentiamo come la pensa in tema di OGM Roger Beachy, come dicevamo, già direttore del National Institute of Food and Agriculture, membro fondatore del Donald Danforth Plant Science Center, membro tra le altre cose dell'Accademia Nazionale di Scienze degli Stati Uniti. Agriculture makes a decision on how they would proceed based on economic issues and who will buy. E gli agricoltori fanno una scelta sulla base del ritorno economico sostanzialmente, quindi in Italia come in Europa c'è una varietà di una gamma vasta di scelta, però spesso gli agricoltori non si basano sul reale profitto, non tanto a livello di scelta di agricoltura quanto su quello economico, quindi si ritrovano spesso ad avere scelte di agricoltura che possono essere o solo tradizionali o solo organiche. Il professor Beachy ritiene che gli OGM diano una garanzia di sicurezza a livello di produzione e i rischi non sono più alti che in diversi tipi di produzione agricola, quindi secondo lui i benefici sono maggiori dei rischi. Una delle obiezioni maggiori che fanno gli agricoltori italiani è questa: è inutile che noi introduciamo per piccole modifiche gli OGM, per una questione di etichetta andiamo così a compromettere l'immagine di una tradizionalità e di una genuinità di prodotto, a volte per piccole modifiche che non porteranno vantaggi economici tali cioè sufficienti da giustificare appunto l'intervento. Your question is a good one because most of the products are developed for large scale agriculture. Questo è un dibattito importante perché effettivamente la questione degli OGM non dovrebbe essere applicata solo alle grandi coltivazioni, ma anche ai produttori locali. Ci sono produttori locali che hanno perdite se vanno avanti con i sistemi tradizionali. E lui ha fatto l'esempio del kiwi o della vite, perché non sono produzioni su larga scala, ma spesso sono fatte da produttori locali. E gli studi e la tecnologia portata avanti da il professor Beachy e dagli altri che studiano gli OGM sta permettendo di eliminare i batteri che causano grosse perdite ai produttori locali, perché ovviamente su una minor scala l'impatto è maggiore, e quindi la positività di questi studi è innegabile, perché anche i produttori locali potrebbero avere grossi rientri economici dall'applicazione degli OGM. Each area has problems and we should give the power to our scientists in our local area to help to solve the solution. E così Roger Beachy, come dicevamo, direttore del National Institute of Food and Agriculture in passato negli Stati Uniti. Concludiamo questo approfondimento, almeno per ora, sulla sicurezza alimentare, ma torneremo a parlarne molto presto perché si avvicina il momento della conferenza annuale del Barilla Food Center qui a Milano, nella Università Bocconi, sarà la settimana prossima, e quindi l'occasione per tornare a parlare di cibo ci sarà senz'altro. Dicevo, ci fermiamo qui per il momento, diamo spazio a un ultimo frammento del documentario che ci ha portato a ragionare su questi argomenti. Ringraziamo Paolo Usinabia per le interviste e ci ritroviamo subito dopo appunto questo ultimo passaggio finale per articolo 9. La nostra percezione dei sapori, oltre che da aspetti chimico-fisici, neuropsicologici e culturali, è influenzata anche da fattori genetici. Perché in certe aree del mondo si privilegiano alcuni cibi e sapori, mentre altrove le preferenze sono completamente diverse? Perché in genere esiste una preferenza per il dolce e un'avversione per l'amaro? La risposta potrebbe venire dalla genetica del gusto, tema di ricerca molto moderno che ci permette di conoscere meglio anche le nostre tradizioni e la nostra cultura alimentare. Un gruppo di genetisti dell'Università di Trieste e dell'Ospedale Materno-Infantile Burlo Garofalo ha svolto una spedizione seguendo parte del tragitto di Marco Polo lungo la Via della Seta. I risultati della ricerca saranno utili per capire anche come la memoria culturale, passando dalla genetica, influisca attraverso un'evoluzione millenaria sul cibo prodotto e consumato oggi, contribuendo alla consapevolezza e all'orgoglio per saperi e sapori talvolta minacciati dalla globalizzazione dei mercati. La ricerca scientifica, insomma, può esserci d'aiuto anche nel preservare il piacere e insieme il valore culturale, sociale, nutrizionale e ambientale di ciò che mangiamo. E a proposito di preservare, andiamo ad articolo 9, la nostra rubrica dedicata alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione. Buongiorno da Marco Carminati. Questa settimana il Comune di Milano ha approvato un'importante delibera, cioè quella di spostare la Pietà Rondanini, che è di proprietà del Comune, che è un'opera di Michelangelo, anzi è l'ultima grande opera di Michelangelo, dalla collocazione dove si trova adesso nel Castello Sforzesco a una nuova sala che verrà dedicata completamente a questa scultura. Parliamo di questo fatto con l'assessore alla cultura del Comune di Milano, Stefano Boeri. Buongiorno assessore. Buongiorno. Ecco, prima di parlare un attimo del progetto, però volevo chiederle, ma come mai noi possediamo la Pietà di Michelangelo, l'ultima Pietà di Michelangelo? Nel mio dopoguerra il Comune di Milano, grazie soprattutto alla lungimiranza della sovrintendente di allora di Brera, acquista l'opera per circa 130 milioni. Sì. Quindi una cifra, se pensiamo che si tratta di Michelangelo, incredibile. I costi per allestire il castello, la sala degli Scarlioni, sono superiori al costo dell'opera. Quindi fu un affare sostanzialmente, fecero un grande affare. E fu anche importante come avvenne questa acquisizione. Sì. Avvenne attraverso una petizione popolare, quindi anche una partecipazione volontaria dei cittadini milanesi. Fu uno scatto d'orgoglio di Milano che comprava un'opera straordinaria che era rimasta per secoli in una villa dei Conti Rondanini a Roma, certo, sostanzialmente estranea a qualsiasi esposizione, certo, pubblica. Da cui il nome. E viene quindi comprata e si trova naturalmente nel Castello Sforzesco la sua degna sistemazione. Però gli anni sono passati, anche queste opere hanno bisogno di essere aggiornate nell'allestimento e la delibera appunto ha deciso di fare che cosa, ecco, nel castello? Devo dire che il modo con cui è stata allestita nel dopoguerra l'opera ancora oggi è un allestimento di grande importanza, perché in qualche modo i BBPR, che allora erano gli architetti, tra gli architetti importanti della scena non solo milanese ma italiana, gli architetti della Torre Velasca per intenderci, certo, decidono di collocare la Pietà dietro una nicchia di pietra serena, sostanzialmente la nascondono alla vista immediata del pubblico, anche perché nella collezione delle sculture lombarde Michelangelo non c'entrava molto e in più, ripetiamolo, era un'opera incompiuta, ma non per questo non completa, ma insomma incompiuta, sì, e quindi forse anche allora difficilmente decifrabile. Sono passati molti anni e senza nulla togliere alla qualità architettonica e anche all'intelligenza di quel gesto, credo che abbiamo il dovere di riconoscere a quell'opera un significato diverso. Abbiamo conosciuto Mura, abbiamo un rapporto ormai con la scultura differente e anche la critica su Michelangelo ha prodotto una riflessione sull'incompiuto. Insieme a questa notizia ne è stata data un'altra che ha suscitato un grande clamore, con posizioni favorevoli ma anche posizioni molto contrarie, a mio avviso sorprendentemente positiva, cioè visto che per un po' di tempo la statua non sarebbe disponibile da nessuna parte, avete deciso di collocarla in due punti veramente significativi della città di Milano. Ecco, dove andrà a finire per un certo periodo? Ma innanzitutto voglio dire che noi abbiamo deciso che l'opera vada dal 2014 stabilmente in un altro posto del castello, che è l'ex ospedale spagnolo. Quindi sarà luogo all'interno del castello. Sì, certo. Ma è qualcosa di più, è un luogo che ancora oggi conserva intatte alcuni affreschi del 1500, è un luogo costruito per i malati terminali della peste di San Carlo, incredibile, dove noi vogliamo fare un vero e proprio museo della Pietà Rondanini. Certo. Naturalmente c'è un tempo, come lei diceva, necessario per restaurare questo spazio e per restaurare la sala dove oggi è la Pietà. L'idea era quella di portare la Pietà in un luogo dove potesse riacquistare un po' il suo senso originario. Secondo me anche perché noi oggi abbiamo anche una, come dire, non solo il dovere di capire di nuovo cos'è quest'opera, perché lì c'è un tema, il modo con cui Michelangelo tratta, ci lavora per 30 anni fino a poche ore dalla morte, cerca di trasmettere nel marmo un'idea di Pietà basato su un concetto forse di reciprocità tra i corpi, insomma è davvero qualcosa ancora tutto da decifrare. Allora abbiamo pensato a un luogo che potesse trasmettere al mondo intero il senso di un'opera che riacquista un posto importante anche nella riflessione contemporanea sul concetto di pietà. E devo dire che la scelta è caduta su un luogo, da questo punto di vista, forse emblematico, che è la cappella centrale del carcere di San Vittore, edificato sino all'Ottocento su un principio panottico, quindi è una specie di crocevia di tutti i percorsi del carcere. Naturalmente ci sarà la possibilità di un accesso, per quanto contingentato, anche del pubblico esterno, e a noi pare che diamo un segnale molto importante da Milano, cioè che Milano si candida a essere un luogo dove anche una riflessione filosofica, concettuale, su cosa significa oggi la pietà a partire da la riscoperta di quest'opera può essere molto importante. Cos'è oggi la pietà nella finanza? Cos'è oggi la pietà nella politica? Sono questioni secondo me fondamentali. Certo, quindi questa idea naturalmente molto forte anche dal punto di vista civico di destinare per un po' certo periodo questa statua, questo capolavoro in un luogo dove naturalmente non ci sono normalmente dei capolavori. Assessore, io la ringrazio moltissimo di questa testimonianza. Grazie a lei. Grazie e naturalmente buon lavoro, perché sarà un'operazione abbastanza complessa e ricca, ma che appunto attraverso questo passaggio attraverso il carcere di San Vittore ci porterà a rimeditare sull'importanza eccezionale di questo capolavoro di Michelangelo. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie. E siamo giunti al termine di questa puntata dell'Altro Pianeta. L'appuntamento è rinnovato per la prossima settimana alla stessa ora. Grazie a tutti voi per l'ascolto, grazie a Laura Faggino in redazione.